Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti, benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani. Carburanti in prima fila e poi i prezzi dei generi alimentari, le bollette sempre più salate, le assicurazioni, l'abbigliamento, la gestione dei figli. Il campionario delle spese sostenute ogni giorno dalle famiglie italiane è vastissimo. E la dinamica dei prezzi, come sapete, è un fenomeno spesso circondato da un alone di mistero che non si riesce a spiegare se si devono tener conto le principali leggi economiche. Un esempio su tutti. Negli ultimi mesi abbiamo rivisto livelli record del prezzo dei carburanti, eppure le quotazioni internazionali del greggio sono contenute e quindi il consumatore non capisce cosa succeda e noi avanti a spiegare la fiscalità, le accise, tutto ciò che va a comporre il prezzo finale di benzina e diesel. Ci sono anche i gestori, come sapete, sul piede di guerra verso le compagnie petrolifere, una situazione di tensione che si scarica poi sulle famiglie e consumatori. Ricordiamo anche i 3 giorni di sciopero dei benzinai nei giorni scorsi e il fatto che in questi giorni non accettino come mezzo di pagamento la carta di credito. Un altro esempio, un altro fronte che abbiamo testimoniato molto spesso fa indispettire i cittadini è per esempio il settore dell'RC auto. Ma perché, si chiedono in molti, se io non ho mai avuto incidenti la mia assicurazione continua a lievitare? Per non ricordare poi per esempio i costi dei servizi bancari, le tariffe telefoniche che forse più che alte sono sempre molto poco trasparenti, e questo tra l'altro è anche un periodo in cui le famiglie sono alle prese con i conti e i bilanci di fine anno, e a guardare tutte queste voci insomma ci si arrabbia e si rischia di passare un Natale anche un po' triste, come sapete, per la condizione in cui si trovano molte famiglie. E quindi noi immaginiamo che abbia trovato molti dossier aperti sul suo tavolo il nuovo Mister Prezzi, nominato ad inizio ottobre dal Ministero dello Sviluppo Economico. L'incarico di garante per la sorveglianza dei prezzi, perché questa è la definizione giusta, è stato affidato a Gianfrancesco Vecchio, direttore generale al Ministero dello Sviluppo Economico per il mercato e la concorrenza e il consumatore, che questa mattina ha accettato l'invito di Salva Danaio e noi lo ringraziamo. Direttore, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Grazie. Buongiorno. Ho detto delle cose scorrette, direttore, intanto perché le sue cariche vanno sempre ben precisate, no? No, questo, tra l'altro abbiamo avuto anche modo di specificare il fatto che credo esattamente come è successo con i colleghi che l'hanno preceduta, in genere questo incarico di garante per la sorveglianza dei prezzi è affidato ad un ruolo già interno al Ministero dello Sviluppo Economico, non mi sembra sia mai stata scelta una figura esterna, direttore, giusto? No, lì è la norma che prevede che sia un direttore generale del Ministero. E in questo caso devo dire che la scelta del ministro ha teso a privilegiare persona che già svolgeva compiti nella medesima materia, costruendo in realtà un meccanismo di sinergie, perché la mia direzione già è la struttura che ha l'osservatorio prezzi al suo interno e che faceva in precedenza da supporto al garante, i garanti che mi hanno preceduto, con cui abbiamo collaborato, e nello stesso tempo è la struttura che ha rapporti con le associazioni dei consumatori, che in realtà sono l'interlocutore principale del certamente garante. Infatti, tra l'altro, volevo anche raccontare ai nostri ascoltatori che per preparare questa puntata questa mattina presto mi sono messa di buona lena a telefonare a un po' di rappresentanti appunto delle organizzazioni dei consumatori. Mi sono fatta suggerire un po' di argomenti da affrontare con lei, direttore Vecchio, per cui questa mattina abbiamo, come ci siamo già detti anche al telefono, molta carne al fuoco. Però io non mi accontento delle sollecitazioni che ho avuto dalle associazioni dei consumatori, voglio anche le testimonianze dirette e le considerazioni dirette, gli spunti diretti dei nostri ascoltatori all'800240024. Vi ripropongo la domanda che abbiamo anche messo sul nostro profilo Facebook: quali sono secondo voi i prezzi sui quali è più importante vigilare? Quali pensate che siano i costi e i prezzi che hanno un andamento che non vi torna e sui quali varrebbe la pena che Mister Prezzi puntasse un faro? Raccontatecelo all'800240024, scriveteci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it e anche, come vi indicavo poco fa, sul nostro profilo Facebook, dove qualcuno ci ha già scritto salvadanaio-radio24. Prima di cominciare la nostra conversazione a 360 gradi con Mister Prezzi, con il dottor Gianfrancesco Vecchio, la borsa di oggi. È una giornata priva di smalto in questo momento, borse che sono partite bene, incoraggiate questa mattina anche dall'ottimismo che c'è sui mercati dopo un nuovo incontro fra il presidente Barack Obama e lo speaker della Camera, il repubblicano John Boehner, per discutere la questione fiscal cliff e quindi l'organizzazione appunto del budget federale. Non vi sto a rispiegare di nuovo che cos'è questo baratro fiscale sul quale gli Stati Uniti rischiano di trovarsi, ma in ogni caso un accordo potrebbe essere imminente, quindi su questa prospettiva ha viaggiato bene ieri sera il mercato americano. Stamattina bene anche le borse asiatiche, con Tokyo con un nuovo rialzo dopo i risultati elettorali di ieri. L'Europa, ieri contrastata, anche questa mattina continua a manifestare segni di contrasto perché Parigi viaggia più a rallentatore rispetto alle altre piazze europee. Listino francese adesso è negativo, dopo essere partito bene insieme agli altri listini. Per Parigi appunto c'è un meno 0,09%, mentre c'è più 0,36% a Francoforte, Londra più 0,25%, Milano più 0,41%. Qua stamattina c'è l'effetto Monte dei Paschi anche sugli altri titoli del settore bancario. Ieri la Commissione europea ha dato il via libera ai Monti Bond per quasi 4 miliardi per l'istituto senese, dopo averlo lasciato un po' in sospeso per qualche settimana, e quindi il titolo ha ripreso a correre, anche se la Commissione europea ha detto ai vertici della banca: noi concediamo questa possibilità appunto di aiuto, naturalmente la condizione è che intanto questo è un aiuto temporaneo e la banca deve però ristrutturarsi molto drasticamente. Banco Popolare più 2,28, fra gli altri rialzi Unicredit più 2,24, bene anche Finmeccanica più 2, qua si riapre ancora il dossier cessioni per il titolo. STM meno 0,8, Pirelli meno 0,8, Impregilo meno 0,7, Parmalat meno 0,57, e questi i titoli con il segno meno. Spread fra BTP e Bund da stamattina sui 315 punti base, euro su dollaro a 1,31,81. Lasciamo la borsa, andiamo subito al tema di oggi e non vogliamo indugiare oltre e perdere ulteriore tempo, perché abbiamo davvero molte cose da chiedere al direttore appunto generale per il Ministero dello Sviluppo Economico per il settore mercato, concorrenza e consumatore, Gianfrancesco Vecchio, che da qualche settimana è il nuovo mister prezzi e quindi la nostra autorità garante, anzi non è autorità garante perché anche qui poi bisogna anche utilizzare i termini corretti, è il nuovo garante per la sorveglianza dei prezzi. E io gli voglio chiedere subito, visto che se non mi ricordo male oggi proprio al Ministero dello Sviluppo Economico sono stati convocati i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti, le chiedo intanto, dottor Vecchio, se anche lei è stato convocato. Ricorderemo poi quali sono i temi sul tavolo di questa categoria in questo momento, anche se li abbiamo raccontati più volte settimana scorsa quando sono stati in sciopero per 3 giorni appunto, e le chiedo qual è il suo commento rispetto appunto a questa tendenza. Stamattina, non so se ha sentito il nostro giornale radio, ACI Censis hanno di nuovo analizzato l'andamento del rapporto tra consumatore e auto, un rapporto sempre più conflittuale perché davvero l'auto per la famiglia italiana sta diventando fonte di preoccupazione per tutti i costi annessi e connessi, dall'RC auto e proprio ai carburanti. Perché continuano a crescere così tanto nonostante le quotazioni internazionali siano stabili, dottor Vecchio? Beh, provo a rispondere più o meno nell'ordine. Sì, anche diciamo, io parteciperò probabilmente alla riunione di oggi pomeriggio, anche se non è non come garante, ma come direzione generale che si occupa di concorrenza e mercato e segue anche quindi le questioni della rete carburanti, perché in questo caso il tema non è i prezzi, ma è i rapporti fra gestori e compagnie, quindi il tema a cascata dopo lo sciopero, diciamo, per vedere le soluzioni che si possono individuare in questo settore estremamente delicato. Quanto invece al tema più specifico dei prezzi, questo è un tema in cui chiaramente c'è piena consapevolezza che è un settore estremamente delicato per le famiglie, è un settore che è stato oggetto in particolare nell'ultimo anno di tensioni forti. Poi io credo che bisogna fare informazione precisa, ma non per drammatizzare le cose, perché dal punto di vista delle famiglie le cose sono drammatiche, voglio dire, i livelli dei prezzi che il settore auto ha raggiunto sia quanto a carburanti che quanto a assicurazioni, e legato alla situazione particolare di crisi del paese, insomma, del potere d'acquisto delle famiglie, è effettivamente una cosa drammatica. Ciò non di meno credo che bisogna, questo è uno proprio, se vogliamo, dei mestieri del garante, fare informazione corretta, perché dare gli strumenti di informazione corretta al consumatore gli consente da un lato di orientare le sue scelte sul mercato, proprio che riescono a condizionare il mercato, le scelte di acquisto, quindi comprare da una parte o dall'altra, scegliere il posto migliore, e dall'altro anche di avere un'informazione anche per la sua valutazione, lo dico tra virgolette, politica, di com'è l'andamento del mercato per capire quali sono le criticità. Se posso entrare nel merito della questione carburanti, il problema del rapporto col petrolio è un problema, se vogliamo, esaminato più volte, ma in parte fuorviante, nel senso che molte volte si fa il confronto con i greggi. È un confronto che chiaramente non le dinamiche dei costi internazionali del petrolio greggio non trovano sempre riscontro nei prezzi alla pompa dei carburanti, per due ordini di motivi. Uno, l'ha detto bene lei, perché c'è la fiscalità che fa un gioco completamente diverso. Abbiamo avuto un anno in cui, per ragioni economiche, la situazione di crisi ha fatto utilizzare tutte le fonti d'entrata, ha fatto utilizzare in maniera pressante questa forma. E sulle accise si è intervenute l'ultima volta in occasione, purtroppo, del terremoto in Emilia, se non mi ricordo male. Non sta al garante, giustamente, valutare la necessità e l'opportunità di intervenire da una parte o dall'altra, ma l'intervento sulle accise è stato massiccio, quindi è chiaro che l'aumento delle accise, come è stato a suo tempo l'aumento di un punto sull'IVA, non trovano alcun riscontro nelle variazioni del prezzo internazionale dei greggi. Ma non è solo quello, perché probabilmente un raffronto più corretto per capire poi le dinamiche di benzina, gasolio, GPL, va fatto con i prezzi dei prodotti finiti, che non sono la stessa cosa, sempre quei prezzi internazionali, ma dei prodotti finiti, perché in teoria le dinamiche sono prodotti che rispondono a leggi di domanda e offerta, quindi in alcuni momenti, secondo come è orientato il processo di raffinazione, potrebbe esserci un'offerta maggiore sulla benzina o una domanda maggiore o minore sulla benzina, per cui le dinamiche dei prezzi separati sono diverse e con cadenze temporali anche leggermente diverse. Certo, prendendo atto di tutto questo, dottor Vecchio, però quando lei nota, come notano molto bene anche i consumatori, che in concomitanza con i grandi esodi festivi, in concomitanza con l'arrivo delle ferie estive, quindi del mese di agosto, il prezzo alla pompa mediamente ha sempre un ritocco verso l'alto che è anche ben consistente, in quel momento, è quello il momento in cui l'autorità garante del prezzo, il garante per la sorveglianza dei prezzi, deve interviene, vi è capitato di sollevare maggiormente l'attenzione in questi frangenti su questo settore? Non c'è dubbio, quando è stato rilevato sì, non è un fenomeno così ricorrente in realtà, noi teniamo sotto controllo una serie di indici, perché in realtà quello è un prezzo estremamente variabile, quello dei carburanti, in cui le variazioni sono in aumento e diminuzione, quindi ci sono anche diminuzioni, come sapete, voglio dire, eravamo arrivati quasi a 2 euro sulle benzine e i prezzi sono riscesi a livelli non adeguati, ma insomma un po' più ragionevoli. E noi seguiamo in realtà, da un lato, lo stacco con l'Europa, quindi facciamo un confronto costante fra i prezzi industriali, quindi al netto delle accise, perché chiaramente la dinamica delle accise è una dinamica che riguarda ogni Stato nazionale. E lì proprio voi non potete dire niente, direttore. Sulle accise, ripeto, non è quello il ruolo del garante, ne parlavamo prima, il garante ha limitati poteri, è un ruolo preciso, io credo che debba far bene il suo ruolo senza farne altro, certo, fa un lavoro di rilevazione e quindi comunica al Ministro dello Sviluppo Economico innanzitutto, attraverso di lui all'intero governo, gli effetti che hanno poi le accise sui prezzi, nel senso che tiene sotto costante osservazione e quindi segnala anche queste situazioni di disagio. La scelta di politica economica trascende il garante, non le deve far lui, giustamente. E quindi insomma questa è una situazione della quale dobbiamo prendere atto, fino a quando non ci potrà essere la modalità per cui intervenire sulle accise, dovremo appunto sopportare questi livelli di quotazione appunto del prezzo finale del carburante, direttore, perché anche lì Mister Prezzi, oltre che a monitorare molto attentamente e fare in modo che non si verifichino fenomeni di speculazione, quindi più no, che altro... Io dico che consapevoli dei propri limiti non è un ruolo marginale, nel senso questa attività di informazione è utile. Nel senso che da un lato far corrette informazioni, uno strumento per intervenire sulle accise c'è il regime, una norma di legge che purtroppo è disapplicata da alcuni anni, ma anche per ragioni che devono essere rese note. Voglio dire, c'è una norma che consentirebbe di riassorbire gli aumenti dei prezzi, non hanno incidenza sugli accise, gli aumenti dei prezzi del prezzo industriale, perché l'accisa è in misura fissa, hanno però incidenza sull'IVA, per cui c'è una norma che consentirebbe di recuperare l'aumento di gettito sull'IVA riducendo le accise, e che consente di farlo sul piano amministrativo, è che una norma che per essere applicata richiede situazioni di maggior gettito, appunto, cose che si sono verificate poco in questi ultimi anni, perché c'è stata una pesante caduta dei consumi. Cioè, è vero che i prezzi sono saliti in alcune fasi anche tanto, teoricamente generando un aumento dell'IVA che poteva far utilizzare questo meccanismo, però in realtà la caduta dei consumi non ha fatto sì che la gran parte dell'aumento di gettito, che non si potesse addirittura applicare questa norma, per esempio, che potrebbe monitorare con attenzione poi per conseguenze da questo punto di vista, ma anche sul resto, perché voglio dire, tenere sotto controllo sempre lo scarto con l'Unione Europea e i margini lordi ci consente di fare un po' di operazioni anche di segnalazione, di intervento. Ci sono stati alcuni momenti in cui in quest'estate lo scarto con l'Europa sarà quasi azzerato, noi viaggiamo normalmente su 4 centesimi di differenza, 3,5. Ci sono stati momenti in cui questa punta era stata notevolmente superata, allora è chiaro che viene il dubbio, si può segnalare, si può fare pressione che ci sia un fenomeno tutto locale, tutto nazionale, non dico di speculazione, ma Di distorsione che comunque va bene. Presidente, direttore, devo andare adesso in pausa perché abbiamo la prima nostra appunto pausa pubblicitaria. Qualche ascoltatore dice: prendiamo atto di tutto quello che il direttore Vecchio dice, però ci sembra, come anche mi ha detto questa mattina un rappresentante di un'associazione dei consumatori, che abbiamo a che fare con un'autorità con armi spuntate. Allora io glielo anticipo già, dopo ci deve raccontare anche quello che questa autorità ha fatto in termini concreti in passato, le battaglie condotte anche con successo, quando il Ministero dello Sviluppo Economico ha raccolto le vostre segnalazioni, i vostri monitoraggi sui prezzi, e che cosa poi è partito di concreto in termini di controllo, coinvolgimento anche della Guardia di Finanza. Noi abbiamo oggi anche questo grande tema dell'evasione fiscale e grande intervento della Guardia di Finanza con le grandi operazioni anche segnalate in questi giorni sul Sole 24 Ore, il bilancio, l'effetto Cortina e quant'altro, ma anche questo è un ambito che interessa Mister Prezzi, quindi vorrei sentire da lei anche tutto questo. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. Adesso cominceremo a sentire anche i nostri ascoltatori, a tra poco. Salva Danaio. Eccoci di nuovo in diretta, oggi chiacchierata a 360 gradi con il nuovo Mister Prezzi, il nuovo garante per la sorveglianza dei prezzi, incarico affidato al Ministero dello Sviluppo Economico, al dottor Gianfrancesco Vecchio, già direttore generale al Ministero dello Sviluppo Economico, appunto per il mercato, la concorrenza e il consumatore. Dottor Vecchio, una domanda di 2 secondi, poi archiviamo subito la pratica, ma siccome gli ascoltatori su questi temi sono molto sensibili, mi chiedono, visto che lo hanno letto da qualche parte, è vero che per questo incarico, questa figura non prende uno stipendio in più, un'indennità in più, soldi in più? Sì, l'incarico è assolutamente gratuito, il che significa che non sono pagato, sono pagato per la mia funzione di base, ecco. Questo è l'incarico aggiuntivo. E quindi insomma lui ce lo dice e poi naturalmente a voi le considerazioni. È che sono tutti quanti sempre sulle questioni degli incarichi pubblici, in questo momento abbiamo, come dire, la pelle molto molto sensibile, no, come le dicevo prima. È giusto, però in questo caso non c'è, ecco, duplicazione di retribuzione. Allora, se c'è questo dubbio lo possiamo fugare subito. Tante sollecitazioni, siamo passati molto rapidamente dalla questione dei carburanti, per esempio la questione del gas e le bollette, dottor Vecchio, perché per esempio c'è un ascoltatore che ci scrive, Stefano, all'indirizzo salvadanaio@radio24, il prezzo di vendita del gas ad uso domestico in 3 anni raddoppiato. Qui c'è anche l'altro grande tema delle bollette poco trasparenti, delle revisioni trimestrali dell'autorità del gas e dell'energia, che appunto sono state costanti negli ultimi tempi, purtroppo, e però insomma molte associazioni dei consumatori sensibilizzano l'autorità garante, il garante per la sorveglianza dei prezzi, sul tema della, a sua volta, sensibilizzazione verso gli organismi preposti sulla questione della bolletta un po' più trasparente. Il consumatore non riesce a capire esattamente quanto consuma e quanto paga per il suo consumo e quindi non riesce neanche a fare confronti sul mercato. Mister Prezzi può intervenire su questo, dottor Vecchio? Sì, ma marginalmente. Qua voglio dire, torniamo al discorso armi spuntate. Io credo che la consapevolezza del proprio limite è un valore, non nel senso che ci sono armi che bisogna conoscere e saper maneggiare. Ora, prendiamo per esempio questo caso, qua abbiamo un'autorità di garanzia in senso stretto che si occupa di tariffe, quella del gas, quindi non ha senso, perché il problema fra pubbliche amministrazioni non è di fare una gara, ma di creare sinergie, non ha senso che sia il garante dei prezzi a mettersi a fare un'analisi in proprio del fenomeno, mentre sicuramente ha senso che ci sia un rapporto stretto, che c'è già. Voglio dire, con l'autorità dell'energia c'è una collaborazione da tempo, sia come direzione sia come garante, anche per quanto riguarda le figure precedenti che hanno rivestito questo ruolo. L'autorità dell'energia su questa storia delle tariffe del gas ci sta lavorando con ipotesi nuove anche di formazione delle tariffe. È chiaro che in questi anni le tariffe del gas hanno risentito pesantemente dei fenomeni di aumento delle materie prime, che hanno inciso ovviamente anche sul gas domestico per i contratti internazionali con cui l'Italia si approvvigiona di gas all'estero. Probabilmente nei prossimi mesi forse qualche riduzione la vedremo, questa era l'ipotesi prospettata di recente dall'autorità dell'energia, e io credo che il garante quello che deve fare è tenersi in rapporto in modo da avere, da continuare a essere sportello per i consumatori che possono chiedere anche al garante notizie, ma in questo caso essere in grado di rigirarlo dove l'informazione la trova completa. Ma voi potete ricevere anche segnalazioni da parte di noi cittadini, dottor Vecchio? Sì, come per esempio fanno le altre autorità che hanno degli specifici sportelli consumatori? È la prima funzione, quella diciamo di sportello di ascolto, quello di dare l'occasione al cittadino di poter presentare il problema a un'autorità pubblica. Noi abbiamo un numero verde che è gestito dal sistema delle camere di commercio, ma insomma qui tutte le risposte vengono poi filtrate e comunicate al garante, che è l'800 955 959. E poi c'è ovviamente la mail del garante, mrprezzi@gogo.it, a cui qualsiasi cittadino può rivolgere le sue domande e avrà risposta. E allora sentiamone subito qualcuna. Dobbiamo ritornare con Antonio dalla provincia di Monza e Brianza sul tema della bolletta. Antonio, abbiamo sentito poco fa le riflessioni del dottor Vecchio, comunque sollecitiamolo ancora un po'. Buongiorno. Buongiorno a lei e al dottor Vecchio. Ci dica. Mi avete già risposto, non si può fare nulla sulle bollette poche chiare. Se voi fate una ricerca di mercato su tutta la rete nazionale, vedrà che l'80% degli abitanti non hanno un'idea chiara di cosa è la bolletta. Troppe diciture, perdita di dispaccio, trasporto, su tre voci di queste, ognuna del consumo a 1, a 2, a 3, ci sono tre voci: perdita di dispaccio, trasporto, per cui una bolletta di un consumo di 300-400 euro ne paga 1.100. Le altre 700 sono di cose strane. Oneri, tassazione e quant'altro, Antonio? Sì. Accise, IVA, quindi IVA sulle accise, tassa su tassa. E questo è molto chiaro, quantomeno Antonio, anche se poi tutta la rete della tassazione è complessa, è molto chiaro che la bolletta è spaccata in due, una grossa fetta di tassazione e una fetta marginale invece di spesa legata al consumo effettivo che si fa nell'ambito della propria famiglia. Antonio, la ringrazio molto. Dottor Vecchio, dopo Mister Prezzi, Mister Trasparenza Prezzi forse dovremmo istituire, le dovranno dare un incarico in più. Sì, la cosa che segnala l'ascoltatore è una questione importante, voglio dire. Sui prezzi, prima ancora di intervenire sui livelli, che bisogna farlo, bisogna intervenire sulla trasparenza. Se il consumatore non capisce, non viene messo in condizioni di capire, non può fare le sue scelte e quindi non diventa attore consapevole sul mercato. Però su questo ci stiamo già lavorando insieme all'autorità dell'energia. Proprio nei giorni scorsi abbiamo presentato qui al Ministero in conferenza stampa un'iniziativa di comunicazione che forse state vedendo sulle varie trasmissioni televisive, che pubblicizza lo sportello del consumatore dell'autorità dell'energia, sì, che nasce appunto per cercare di realizzare proprio nella consapevolezza che le bollette, sia quelle elettriche che quelle del gas, sono estremamente complesse. No, devo dire che conoscendo anche molto bene questa autorità so che davvero ci stanno lavorando molto, lo faceva l'ex presidente Alessandro Orti, se lo fa attualmente Guido Bortoni. Esattamente. È un tema che hanno a cuore, è un tema complesso, sì, non è un tema. Ed è un tema complesso. Lo sforzo in questa direzione si sta facendo perché lo consideriamo insieme importante. Cambiamo settore, dottor Vecchio, andiamo un po' al supermercato, componiamo il nostro carrello della spesa e sentiamo un po' i prezzi, per esempio, del settore agroalimentare. Le associazioni dei consumatori si lamentano del fatto che ancora una volta c'è questo divario molto importante tra il produttore e il consumatore. Soffermiamoci per esempio sul prezzo dell'ortofrutta, anche se la neve che è arrivata quest'anno ancora non ha fatto lievitare i prezzi in maniera indecente, neve ancora sotto controllo e di conseguenza anche prezzi appunto di questi generi alimentari, e però la filiera si continua a lamentare un po', tutto il mondo del consumerismo è lunghissima e quindi ne risentono ovviamente. Le ricadute più importanti sono nell'ambito della filiera dell'agroalimentare sui due anelli più deboli di questa catena. Il primo primo e l'ultimo, il produttore che viene pagato pochissimo per quello che fa e il consumatore che invece vede il prezzo triplicare rispetto all'inizio di questa catena. Mister Prezzi, so che questo è un grande terreno di controllo per quello che riguarda questo il garante per la sorveglianza dei prezzi, appunto. Come state monitorando questi fenomeni? Sì, questo degli agroalimentari è sicuramente un tema di interesse delle famiglie. Lì bisogna anche tener conto che in effetti, se anche guardiamo gli indici Istat, che in questo momento non sono particolarmente allarmanti, però se poi confrontiamo l'incremento generale con l'incremento dei prodotti a maggiore consumo, i prodotti a maggiore consumo hanno un livello di aumento maggiore, appena più preoccupante rispetto all'indice generale dell'inflazione. Se vedete sul sito dell'Osservatorio Prezzi, cui il garante ha la responsabilità, proprio sull'home page le prime cose che compaiono sono i prezzi dei prodotti agroalimentari, che noi seguiamo con informazioni a partire dall'ingrosso, dove abbiamo informazioni recuperate dal sistema di Borsa Merci Telematica, di Infomercati, di Ismea. Quindi l'analisi della dinamica dei prezzi viene fatta costantemente nel tentativo anche di capire questi fenomeni sulla filiera. Quindi mi faccia capire, voi pubblicate i prezzi delle merci all'ingrosso, perché c'è Claudio da Savona, un ascoltatore, che per la verità suggeriva proprio questo. Glielo faccio ascoltare, dottor Vecchio, poi magari precisiamo ulteriormente il vostro sistema di monitoraggio. Claudio, buongiorno. Ha sentito cosa diceva Mister Prezzi poco fa? Sì, però sento pochissimo, probabilmente ho dei problemi di telefono. Secondo me basterebbe pubblicarli su organi di informazione, tipo anche la Sole 24 Ore, oppure comunque sui giornali locali, il prezzo all'ingrosso dei vari generi alimentari. E di lì si potrebbe almeno capire da dove poi si forma il prezzo finale. Dov'è che i prezzi vengono raddoppiati, certo. Potrebbe capire, e questo sarebbe un controllo che può fare qualsiasi cittadino, invece di magari delegarlo a un'autorità. Claudio, grazie. Mister Prezzi, dottor Vecchio, allora qual è la tipologia del prezzo che voi pubblicate? Sì, noi non pubblichiamo ovviamente tutti i prezzi, che sarebbe impossibile, ma su molti prezzi, se guarda per esempio l'home page di oggi, lì i prezzi cambiano sistematicamente, ma all'interno del sito se ne trovano altri. Oggi per esempio uno trova sull'home page dell'Osservatorio Prezzi del Ministero i prezzi delle arance, delle carote, dei cavolfiori. Sono i prezzi all'ingrosso indicati con una forbice. Degli ortaggi e della frutta di stagione, naturalmente. Lei non ci mette le fragole adesso, evidentemente, no? Il meccanismo è un poco, diciamo, random, cerca di mostrarli a giro un po' tutti quanti i prezzi, e poi nelle pagine interne ci sono approfondimenti, focus, e io credo che sia uno strumento utile di informazione per il consumatore. Il prezzo all'ingrosso non è il prezzo al dettaglio, però è un punto di riferimento. Lei parlava della gelata, lo scorso anno si è fatto un lavoro su quell'operazione, si è cercato di stare attenti e di capire, perché è chiaro che in alcuni punti l'idea e nel seguire la filiera noi abbiamo anche cercato di capire da dove arrivasse la merce, perché se la merce in parte arriva oggi anche da mercati esteri, la gelata nel Lazio non deve avere un effetto così drammatico sul mercato, perché i prezzi all'ingrosso che seguivamo restavano stabili. No, stavo quindi guardando, tra l'altro, che proprio proprio poco fa mi è arrivata, adesso la ripesco se ce la faccio, un comunicato stampa della CIA, della Confederazione Italiana Agricoltori, che lamentava il fatto, adesso ovviamente non trovo più questa mail, adesso magari la ricerco per la sua. Eccolo qua, i mercati sempre più invasi dai pomodori del Marocco, i produttori italiani ed europei in grave crisi, e quindi dovete vigilare anche su questo, dottor Vecchio, oppure no? Su questo no, c'è un ministero apposta che segue queste cose, voglio dire, è chiaro, poi al di là di quando i prodotti esteri non sono adeguati, su questo bisogna vigilare con attenzione, la qualità dei prodotti esteri, ma il mercato è mercato, voglio dire, se arrivano anche prodotti esteri non è una cosa scandalosa, se hanno prezzi minori può essere anche un bene per i consumatori, l'importante è che arrivino prodotti però di qualità. Che e proprio che non, in Italia dobbiamo mangiare... L'importante è che siano venduti correttamente. Sì, cioè sì, no, però poi... Facendo capire se uno sta comprando arance italiane piuttosto che arance del Marocco, piuttosto che un prodotto diverso, uno deve capire cosa compra sempre e poi fare le sue scelte di convenienza. Esatto, lì c'è tutto il problema dell'etichettatura, che è un'altra questione. Diciamo che non abbiano utilizzato anticrittogamici in misura eccessiva. Infatti. Non abbiamo violato le regole. Ci fermiamo per i suggerimenti perché in viaggio, poi andremo a Gabriella dalla provincia di Cagliari. Quanti settori vorrei affrontare? Le RC auto, i servizi bancari. C'era un'associazione dei consumatori che mi sollecitava anche un altro tema, tornando alle bollette di prima. Se Mister Prezzi si potesse fare in qualche maniera promotore di una maggiore sensibilizzazione verso il legislatore sulla questione delle tariffe sociali da garantire alle famiglie meno abbienti, ma non so se anche questo Mister Prezzi lo possa fare. A tra poco. Salva Danaio. Roberto ci scrive su Facebook: olio di oliva, pasta, riso, salumi in promozione nascondono spesso pessima qualità, verdure di stagione non le trovo a meno di un euro, escludiamo frutta secca e castagne, i pistacchi ad oltre 15 euro in un grande centro commerciale di Castel Arquato. Roberto, grazie per la sua segnalazione, faremo aprire un'istruttoria sui pistacchi di Castel Arquato a Mister Prezzi. Naturalmente sdrammatizzo un po', non voglio scherzare su temi invece che ci sottopongono i nostri ascoltatori. Questa è la frutta secca, costa veramente tanto anche in piccolissime confezioni, ma ha tutta anche una procedura di confezionamento, preparazione e ripulitura che evidentemente porta anche a questi prezzi finali. Un altro ascoltatore, Sergio, ci scrive: carburanti e le assicurazioni che influenzano enormemente tutte le filiere in ogni settore, quindi non solamente l'utilizzo dell'auto in famiglia, e anche questo è vero. Gabriella dalla provincia di Cagliari, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io vorrei fare una domanda al dottor Vecchio. Ascolti, io vorrei sapere chi sono stati i primi a raddoppiare i prezzi di vari tutti i prodotti, dei prodotti generali, perché io il mio stipendio era di 1,5 milioni, mi è stato quantificato in 750 euro. Io, se vado però a comprare, faccio l'esempio banale di un mazzo di prezzemolo che prima veniva a 1,000 lire, adesso viene 1 euro. Ma il cambio non è corretto, cioè 1 euro sono quasi 2,000 lire. Il mio stipendio perché è rimasto uguale? Il cambio è stato fatto esattamente e i prodotti invece hanno raddoppiato. Per quale motivo? E non c'è stato controllo di niente su questo. Allora, ecco perché c'è stato un calo del potere di acquisto. Infatti, Gabriella, lei veramente gira il dito, il coltello in una piaga della quale parliamo dagli inizi degli anni 2000, il changeover che è avvenuto in maniera anche lì non certo trasparente. Ancora oggi i consumatori ne subiscono le conseguenze. Giustamente i prezzi di largo dei beni di largo consumo si sono immediatamente equiparati all'euro. 1,000 lire sono diventate 1 euro, quindi quasi 2,000 lire. Le buste paga invece si sono dimezzate rispetto al valore espresso in lire. Dottor Vecchio, so bene che lei su questo non può far nulla, ma da consumatore e cittadino che ne pensa rispetto a questa che è ancora, come dire, una spina nel fianco dei consumatori che non dimenticano, che non tollerano nonostante siano passati ormai tanti anni dal passaggio alla moneta unica europea? Capisco la reazione, capisco pure che all'epoca forse il monitoraggio non è stato sempre adeguato. Poi è anche una leggenda, nel senso che ci sono stati alcuni fenomeni, qualcuno ha speculato, ma il singolo negoziante ha fatto i cambiamenti così. Se fosse stata una speculazione così generalizzata, l'avremmo fotografata negli indici Istat, perché gli indici Istat sono fatti, voglio dire, il cambio l'hanno fatto in maniera corretta, per cui avremmo visto un effetto inflattivo improvvisamente del 100%. Non è stato così, anche se l'effetto inflattivo è stato notevole, probabilmente anche per effetto. Quindi se pigliamo l'intero periodo, l'effetto c'è certamente di raddoppio dei prezzi, ma sull'intero periodo non è tutto spiegabile col cambio lira-euro, è spiegabile con delle dinamiche internazionali di aumento dei prezzi che in Italia hanno avuto aspetti di accentuazione particolare. Se posso, volevo tornare un attimo su quell'altra cosa che faceva riferimento alle tariffe sociali, sì, perché non è una competenza strettamente del garante, ma è una cosa su cui anche il garante ovviamente sta lavorando insieme all'autorità dell'energia, perché le tariffe sociali nel settore dell'energia elettrica e del gas, il cosiddetto bonus sociale per le famiglie che hanno l'ISEE, è lo strumento di indicazione del reddito delle famiglie particolarmente basso, e per le famiglie che hanno al loro interno purtroppo situazioni di malattia tali da richiedere apparecchiature salvavita in cui la fornitura di energia è un elemento essenziale, esiste un bonus. Sì, è un bonus, tra l'altro, anche poco utilizzato, nel senso rispetto alle. Perché lei lo sa che i parametri sono veramente bassi. No, ripeto, guardando i parametri ci si aspettava una domanda più elevata, per cui nell'ambito di quella campagna si sta cercando di far campagna anche sul bonus, perché questo, ripeto, anche questa è una funzione importante. Probabilmente c'è un problema di scarsa conoscenza. Noi abbiamo fatto tante puntate anche sul bonus energia. Sono proprio quelle che hanno che hanno meno informazioni su queste opportunità, quindi bisogna assistere, forse anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori, esatto, per fargli sapere che esiste questa opportunità. Allora, dottor Vecchio, stiamo andando verso la chiusura, abbiamo ancora 5 minuti. Mi dice in questo momento quali sono i dossier aperti sui quali sta lavorando lei, entro quanto crede di poterli chiudere, appunto quali sono in questo momento i campi di battaglia sui quali sta lavorando? Sicuramente stiamo facendo questa manutenzione di base dell'osservatorio per renderlo sempre più ricco. Quello dei carburanti è un tema su cui sicuramente stiamo lavorando in questo momento, noi oltre alla rilevazione dei prezzi, questa, diciamo, per dare i dati medi sui carburanti, abbiamo uno strumento che uno strumento di informazione puntuale dei prezzi effettivamente praticati alla pompa per ogni singola pompa, che in questo momento funziona per il settore autostradale. Stiamo cercando di potenziarlo perché se riusciamo a migliorare, già se qualcuno va a curiosare c'è uno strumento informativo notevole, cioè oggi se un cittadino vuole sapere quali sono i prezzi lungo una tratta autostradale, imposta la sua domanda nella scheda, riesce a conoscere tutti i prezzi, al limite facendosi riordinare fra il più basso e il più alto, non è detto che poi la sua scelta di acquisto non sia preferisco servirmi lì perché trovo l'offerta particolare, però può conoscere dove trova il prezzo più basso su una tratta autostradale. Lì stiamo cercando di migliorare il livello di informazione, stiamo valutando la possibilità in tempi brevi di estendere l'operazione, come previsto peraltro dalla norma, all'intera rete stradale, quindi a tutti gli circa 24.000 impianti di distribuzione. Ecco, domande flash, dottor Vecchio, risposte flash se ce la facciamo. Sul settore dell'RC Auto voi potete intervenire? E sul settore dell'RC Auto il governo è intervenuto in maniera, diciamo, notevole per costruire le condizioni. Tutti i provvedimenti più recenti sono intervenuti sulle frodi assicurative, su altri elementi che giustificano in parte, in minima parte, il livello particolarmente alto dei prezzi assicurativi nel paese. Poi c'è un altro fenomeno, diciamo, preoccupante, che è quello delle differenze territoriali e delle differenze tra tipologie di veicolo. La famosa questione del neopatentato di Napoli rispetto a quello di Milano, che ovviamente… Quello, il garante di per sé, anche lì deve innanzitutto rapportarsi con l'autorità di settore, c'era l'ISVAP, ormai fra qualche giorno ci sarà l'IVAS, che è quella, diciamo, deputata a seguire il settore in pieno, però può fare un bel lavoro di squadra con l'autorità di settore per tenere sotto controllo il fenomeno e contribuire per quanto può all'elaborazione delle politiche che il Ministero continua a fare per trovare una risposta a questo problema, che è un problema importante. Ecco, perché è vero, come diceva l'ascoltatore, prezzi delle assicurazioni e prezzi della benzina, riflettendosi sui costi del trasporto, a cascata generano effetti sull'intera inflazione anche degli altri beni. Certo, allora stavo leggendo un SMS di Ernesto che dice: sabato scorso al supermercato ho preso dei pomodori, quando ho visto l'etichetta Marocco stavo lì per cambiarli con quelli italiani, ma erano così belli e gli dispiaceva. Vabbè, comunque senta, un'ultima considerazione, poi c'era Marta da Verona. Marta, io vorrei concludere ancora con delle domande con mister Prezzi. Comunque Marta diceva: secondo lei il consumatore può fare moltissimo, scegliere certi prodotti al posto di altri e quindi esercitare al meglio il suo ruolo di consumatore, esercitando al meglio appunto la scelta. C'era un tema che volevo affrontare per concludere in 30 secondi. La pasta. Mister Prezzi ha fatto in passato un'indagine sulla dinamica dei prezzi della filiera della pasta e l'antitrust anche ha multato le aziende del settore per un presunto cartello sul prezzo finale. Siccome siamo dei pastaioli noi italiani, dottor Vecchio, è un tema sul quale continuate, un settore sul quale continuate a vigilare? Sì, noi scegliamo praticamente i settori man mano che ci vengono segnalate criticità. In questo senso è importante anche una trasmissione come questa per sentire gli ascoltatori e il rapporto con le associazioni dei consumatori, per cui il settore dei prodotti agroalimentari, anche della pasta, continua ad essere all'attenzione. Poi lì, questa è una degli strumenti che il garante ha a disposizione, se rileva fenomeni di mercato che non hanno una spiegazione di mercato, la segnalazione è all'autorità, che ha un potere di intervento. Ecco, certo. Ma prima che intervenisse l'antitrust, voi eravate intervenuti su questo, avevate sollecitato un po' il settore a ridimensionare. Una segnalazione è partita da questo ministero. Benissimo. Che aveva rilevato. Grazie, dottor Vecchio. La risentiremo presto. Naturalmente ci racconti un po' le prossime battaglie che farete. Grazie a Laura Fagin, Matteo Comes e Salva Danaio. Torna domani. A tutti buona giornata. Grazie a voi.